Romane. Mi hanno telefonato e mi hanno migliaia di dinari e antenna non venne. La cosa mancavano i ribizzi che andavano sballati, adesso mi tocca aspettare che mi ricaricano la carta qui. A fanguarla. Ah, perché non sono trovato i soldi? Scusa, non potevo darti una antenna. No, oh, dammi di dinari, cosa una antenna, e altre antenne non le posso piazzare io. Una fratella uguale, se mancava di pezzi te la davano l'altra, avete aspettato qualcosa tipo soli 2 o 3 giorni, a meno che non sia andata la seconda mano. Oh, ma era, e neanche la Sirio ne ha pezzi prima di gennaio, capito? È un casotto, ma via in Masuru. Ah, ne aveva una solo. Beh, vabbè, cosa vuoi ti dica io? A meno che non ti metti una canna alla pesca come quella che fa Luca e ti metti una di quelle, cosa vuoi dire io? Però salire sopra è sempre un casino. Non salgo da nessuna parte io, non hai capito che sul tetto non ci posso salire. La mettevi davanti alla facciata? Sempre lì la piazza, dove è piazzata, ne butto giù quella lì che c'è e metto l'altra nuova, che non ha radiali, non disturbo, e la metto più in alto pure. Quando mi arrivo, adesso la devo ordinare da un'altra parte, intanto sono tenuto i soldi e mi devono ricaricare la carta però, e ci passeranno un paio di giorni, 2 o 3 giorni. Ah beh, già te la ricaricheranno la carta, qual è il problema? Tanto quello dice ce l'hanno. Sì, che me la ricaricano, non esiste che non me la ricaricano, me l'ha detto quello che mi ha telefonato, quello del negozio, no? Ha detto che mi restituiscono i soldi. Ah, beh, allora va bene, va. Sei un attimo che mi stanno chiamando al telefono. Sì. Chi è? Non piove. Sì, piano, quando sta piovendo? Che rumore oggi? Rumore di qua RM. Io che ce l'ho a 5. Io non ce l'ho a 1, la verità. E voi siete a Palotto adesso, sì? Sì. Ah, cappa. Saluto di vestito con Calizio qua da Sassari, poi l'altro non ho capito chi sia, mi sembra il produttore sia lo stesso. Andiamo, cazzo! L'altro è Mario, cazzo, ci arrivi poco forte la prossima, ma dove sei? Nella zona dei Balai? Io? Eia, tu sì. No. Dove c'è il faro? Dove c'è il faro? Figurati. Adesso mi muovo a Talluca, che è al monte, anzi mi sembra, sono al monte, anzi, dove si paga la veloce. Adesso mi muovo a Talluca, figurati. E qui è zona alta. E me la sono accorto che è zona alta, tu arrivi 9 più 20 qua. No, un'antenna sistemata bene. Sta uscendo bene, per avere un... Dovrebbe essere un chiamato con microfono normale, vabbè, c'è anche per i porci. Sì, normale. Ce l'ho preamplificato, ma già va bene anche questo. Esci forte, 9.20 sei qua, Sassari. A casa mia, vabbè, sono andato anch'io qua. Cabo alzi alto, e tu in pratica di fronte, perché io vedo tutta la zona di Polo Torres, la zona industriale, eccetera, eccetera. No, ho capito, dove abitava Claudio? Sì, parallelo a Claudio, solo che io sono un pochino più in basso, sono 4 piani più in basso dove abitava Claudio. 4-5 piani in meno. Sono dove c'è l'hotel che c'è qui a Clabolazzi, in via Carlo Felice, l'hotel Carlo Felice là di fronte. Mario, tu dove sei? Sì, ho capito. Sta arrivando forte qua, eh? Ho capito. È un choc. E più che altro per il rientro delle scariche elettrostatiche, quella roba lì. Sì, è molto semplice. Scusa l'amico di Sassari, gli spiego un attimo a Mario. È semplicissimo. Un tubo da 80 compresso. Di quell'arancione per scarico acqua, lo trovi un po' dappertutto. Allora gli fai 20 spire di RG58, ai terminali gli saldi 2 PL da pannello, sia da una parte che dall'altra, e il gioco è fatto. Alessio comunque qua da Sassari. Comunque anche per le scorse vabbè, bastava collegare allo chassis dell'apparecchio un cavetto, lo colleghi al tubo di rame che c'hai del riscaldamento e le scariche te togli direttamente da lì, va bene anche quello. Ti fa tipo massa a terra, come si faceva una volta con quegli apparati stile antico a valvole. Sì, può andare anche bene. Dipende dal livello di elettrostatica che hai in giro. Ho capito. Allora, è utile che isoli l'antenna dalla base. Tu sai cosa c'hai? Tu c'hai un unico problema. Ti prendi un bel tester e ti controlli col tester. Senz'altro c'è qualche presa da qualche parte in quel palazzo che è in perdita e quindi scarica al muro e in automatico ti scarica al palo, dal palo poi scende direttamente dove c'è la baracchina, dopodiché va anche l'alimentatore eccetera eccetera. C'è un ritorno di corrente elettrica, te lo dico io. Quindi devi fare l'esclusione, o c'è qualche presa in casa tua che sta toccando il muro e tu manco te la accogli, quindi va bene, tutte le prese di casa tua le fai a una esplosione, capito? È rimasto. E cos'è, non l'ha attaccato salvavita? Però Antone, aspetta un attimo, te la accogli subito, te la accogli. Allora metti la massa agganciata al muro e positivo l'attacchi a piede del baracchino e te la accogli subito se c'hai, anzi no, fai il contrario, la massa del piede del baracchino e positivo lo appoggi al muro del test e ti accorgi se c'è tensione, se c'è tensione te la accorgi subito, quanti posso dire, alla finestra, cosa del genere, quando c'è l'ispezione è così, se c'è la finestra che è metallizzata te la accorgi subito. Andiamo, conosciamo anche il destra. Sì, però devi mettere in borsa, naturalmente, alternata, se no non puoi misurare niente, hai capito? Tutto lì. Te la accogli subito se c'è l'ispezione di corrente. Attaccano le due freddi. Comunque tu controlla, ti accendi l'alimentatore, ti accendi il baracchino, metti il neutro del tester, messo naturalmente a 220 in alternata, lo appoggi al baracchino e invece il positivo del tester lo appoggi al coso, alla parte metallica del muro, quello che c'è, una finestra, che sono di Biazzi. Te la accorgi subito se c'è corrente, tanto si segnerà a 110 come minimo, se c'è qualche dispersione. Lo facevano una volta quei computer, quelli di stazione base, bisogna andare a esclusione, hai capito? Quando vedi che è così, allora incominci, prima a controllarti la ciabatta, la presa, quello che è. Perché vai a esclusione? Io ho fatto così, è l'unico modo, perché non ho trovato la perdita della corrente, perché a me mi scaricava, quando usavo il computer, toccavo la parte metallica del wifi e c'avevo 110 volt, figurati tu. Claudio, guarda che può essere anche qualche ciabatta, qualche presa multipla che ci ha fatto il loop. Insomma, è un po' tutto da controllare. Antone. Aspetta. Capo, aspetti, quando c'è una tele, lo stava chiamando. Dimmi, Natali. Ehi, ho detto, non gli attaccava il salvavita. Non ho capito con chi stavi parlando. No, in pratica lui ha problemi. Accende l'alimentatore, accende il baracchino, come attacca il piede, si piglia la scossa direttamente la pelle, capito? La massa del pelle. E come, cioè, quando c'è il Saturneco, se lo sai, il Saturneco c'ha quella specie di circuito stampato all'interno, dove c'è agganciata diretta la 220. Se c'è uno di quei condensatori che non filtrano, scarica direttamente allo chassis, hai capito? La stessa interna, lui c'ha una specie di cosa del genere, anche se non è, c'è una specie di perdita o in casa, o una presa, o una ciabatta magari vecchia, hai capito? E come lui va a saltare nel palazzo, non ne ha, quindi scarica il muro naturalmente, dal muro va direttamente anche l'antenna, nel palo dell'antenna scarica lì. E la seconda è avere, ti dico, degli effetti 250 valvole, che prende, se non c'hai una cosa per poter scaricare, ti scarica fino al palo, è la stessa cosa che lui c'ha, gli stessi problemi. Io mi ricordo di quel lignarone che stavo togliendo la valvola per cambiarla, no? Ma questo qui c'è cosa, manco drena, già accusato. Sì, ma una è la valvola da lì, l'altro è prendersela al muro, come ho fatto io. A me mi è capitato una notte che stavo usando quelli di quel computer stazione base, Adriano mi aveva fatto una specie di wifi, no? Da agganciare, con una scatola di olio cuore, e c'era quelle 90 cm di giro, 113, e poi c'era l'attacco laminato in oro. Ma l'ho toccato un giorno e e non voglio bere la scossa, ho preso e ne ho staccato tutto, ho staccato, sono andato a eliminare, prima sono staccato le cose del baracchino e non, il baracchino non c'era niente, mi dava la scossa lo stesso, finché non sono arrivato fuori internato c'era in pratica la massa e il cavo della caldaia, hai capito, che scaricava direttamente a muro. E quindi ho preso tre altri cavi e gli ho detto, ma ti attacca il trama. Io dicevo fuoco una roba del visore perché non c'era massa a terra, capito, un casino è successo. Guarda, ho dovuto fare la massa a terra io qua, perché qua ci va il fuoco dall'antenna, la presa dell'antenna del televisore, figurati un po', era tutto un casino qua l'impianto. Sì, senz'altro lui c'ha una presa di casa, siccome magari mezzo sbucciato e cosa del genere, tocca il muro e scarica lì, hai capito? E quindi, a meno che non sia sopra, magari all'ultimo piano, se c'è qualche centralina magari che è stata installata per l'impianto di antenna TV e scarica lì, hai capito? Solo che lui si piglia anche la scarica dell'antenna, cioè dal palo e dal banchino, il discorso è quello lì. Va bene, avanti produttore. E un attimo di bianco per me, avanti Mario. Figurati, 22 volts, quindi vuol dire c'è qualche trasformatore o l'alimentatore o sono dovuto salire sopra a controllare la centralina, perché sono pochi volts, 22 volts, l'alimentatore non può essere, quindi senz'altro era sopra, devi controllare la centralina, deve essere in perdita. Guardate la TV, sì, centralizzata. Ehi, Alessio qua da Sassari comunque. Sì, esatto. È Natalino, è Natalino. Poi ci dovrebbe essere anche Carlo Spalvino, se è rientrato. Clavici, sì. Ci abbiamo anche un Claudio qua da Sassari. Spalvino magari c'è. C'è. Poco fa c'era. Adesso, vabbè, comunque la qualche dispersione c'è. Se guardate è dall'appartamento a fianco. Devi andare a esclusione, devi andare. No, ma se io l'antenna non paro, massa non ne hai. Ricordati che l'antenna lavora con la massa, senza massa non esce un accidente, quindi devi lavorare per forza con la massa, tu del palo. Il problema è che devi fare un bel giretto per controllare dove c'è questa perdita. Capito? L'ho dato via subito. Tu fai una cosa, ti fai il... prendi l'alimentatore, il baracchino te lo porti appresso e guarda nell'appartamento a fianco, se ti fa la stessa cosa, qualche perdita per forza la lui, perché il contattore è totalmente l'inverso, hai capito? Se invece lo fa solamente in casa tua, vuol dire che la perdita è in casa tua, c'è poco da sbagliare. Lavora la massa radiale e anche il palo e anche la gaffa che c'è cacciata a muro, se no la massa non ne hai. In che senso la pedala per l'altro? Cos'è? Una canola a pesca? No, deve essere agganciata per portare le gaffe del muro, sta tranquillo. E se no è uia. A un certo punto ti come piazzati una canola di barca, allora scusami, ti prendi una canola di barca, la caccia dove... un pezzo di legno sopra il tetto stai andando e la terra è isolata, è come avere un dipolo. Beh, il dipolo funziona così, se tu fai un dipolo tu lo fai 2,64 per braccio e non agganci né a destra né a sinistra né del muro e ti rimane appeso su due fili di nylon, non è che la scossa non te la prendi più, questo è poco ma sicuro. Vabbè che non sia ritorno di RF, ma sia una perdita di qualche trasformatore, cosa ne sai tu? Il discorso è quello, sono 22 volts d'altronde, non è che sia una tensione di 3-4 volts che non senti nemmeno, ma già se la senti a mano, stai tranquillo, già come ti sto dicendo io, c'hai qualche perdita in qualche posto, se non è a casa tua è nell'appartamento a fianco, questo è poco ma sicuro. A parte che se chiedi a quello a fianco posso dire se il palo è agganciato sopra il tetto e la dispersione c'è anche nel palo. Se va a toccare l'impianto della TV che lui ce l'ha agganciato allo stesso muro, piglia la scossa anche lui dal televisore, non ti preoccupare. Beh, se lo chiama a sapere, si è fregato, sì. Capito. Ma lo caro ci avete deve essere una casa di quello modello antico, con ognuno per i fatti suoi. Se avessi avuto un impianto centralizzato del riscaldamento, allora potevi scaricare e mettere un filo che partiva direttamente dall'apparecchio e l'avessi collegato al tubo del rame. Quindi in pratica ognuno ha il riscaldamento per i fatti suoi. Non c'è, quello ti posso dire, temo si fuori, non è nulla. Ognuno ha il riscaldamento per i fatti suoi, papà. Ah, di quelli rigidi. Oh, lascia bellina, allora, tutti bene. Senz'altro c'è qualche pezzo di cavo che sa che l'ha magari toccato e in perdita. Ecco, dov'è il problema? Ah, tirata lì. Ricordate lì con le canalette in plastica, rigide, dritte, dritte, dritte, per fare la curva, quei cavi grossi, da un millimetro e mezzo ci voleva un minimo di 4-5 litri di cosa per togliere fuori, detensivo per i piatti. Lo so, è così. Ho abitato in una palazzina del genere, non succede per quello. Non so cosa vuol dire. Tutti i cavi rigidi con quei tubi di plastica. Per poter sollevare quel cavo ci voleva una pinza e un coso, una forza di muscoli perché dovevi tirare il colpo. Se no, manco molti si piegano, capito? Il discorso è quello lì. Evidentemente uno di quei cavi è stato, magari volevano cambiarlo, è stato tirato e come l'hanno tirato l'hanno appena graffiato. Hanno visto che non mollava, ci hanno rimesso così com'è e hanno agganciato di nuovo tutto come la prima. Quindi in pratica per poter fare una cosa come si deve bisogna fare tutto l'impianto nuovo, la canaletta esterna, come si fa di solito, per il tanto a bucare il muro e metterci i tubi da 20 e toccherebbe fare un casino, potrebbe fare. Quindi l'unica cosa, la canaletta esterna fatta prima, ci passate i cavi, hai capito? Poi ognuno per i fatti suoi. Prendi muore andiamo, certo. Un fumato o stai parlando? No, come io la sono Thomas. Ok, a meno che non ti agganci alla... Se c'hai l'ascensore, lì la massatura c'è per forza. Ti agganci alla massatura dell'ascensore. Anche a piedi sale, capito. Andiamo buon simone, a vedo allora, per palazzo. Quello è il palazzo delle UACP di Polo Thomas, quello. Poi, va bene, dai, vi lascio che sono già le 6 che devo fare un lavoro adesso. Ci sentiamo dopo. Saluta a Claudio di Polo Thomas, Luca, ci sentiamo dopo, dai. Sì, ok, a dopo, dai, ci sentiamo. C'è qualcuno? Come al solito non c'è mai nessuno. E beh, già fra. E oggi ti ho abbandonato, perché è un pegnato che è arrivato col giocattolo, mai più un giocattolo per i satelliti, ero fuori al buio e si mette a cantare questo affare, roba da matti, Che vuol dire il giocattolo? Ah, il coso, il misuratore del campo. Sì, diciamo che quello è un parolone. È piccolino, cioè è pesantissimo, ma allo stesso tempo le spiglie se non metti gli occhiali non ci vuole la mazza, no? Sono al buio, voglio vedere domani alla luce se c'è qualcosa, ma la cosa più fastidiosa è che c'è questa sirena, questo bip, bip, bip, una cosa, ci ho dovuto mettere un coso sulla Vuodio per eliminarlo, perché non me l'accetta neanche da minuto. Che a me capita. Ma qual è quello giallo tu hai preso? No, la verità è nero. C'è un elenco di satelliti, non c'è ancora canali perché logicamente non farà buona, non è puntata e quindi non può fare la scansione. No, io ne ho, allora, io ne ho in tutto tre. Ne ho uno della Promax vecchio con il tubo a tubo, però piccolino, diciamo abbastanza efficiente della Promax. Poi ne ho un altro che è quello in riparazione, quello è un apparecchio che costa una barca di soldi, della una quello lì è in riparazione, quello fa tutto il possibile e immaginabile. Ti dà anche l'interruzione del cavo, MER, tutte le informazioni per controllare l'efficacia dei segnali. Oltre al segnale tutte le informazioni che ti danno il transponder. E poi ne ho preso uno giocattolino, l'ho pagato per un centinaio di euro più o meno, adesso mi ricordo 120, che lo c'ha il televisore, come si chiama, HD piccolino, LCD, infatti quando mi guardo le partite molte volte lo interfaccio col televisore, non fa perdere neanche tempo, e c'ha il coso, il misuratore di campo, però non ha l'analizzatore di spettro, quello lì. Le cose, c'ha la blindiscan, è un piccolo ricevitorino, però che c'ha rapidissimo a cercare i canali e c'ha tutti i satelliti preimpostati, tutti i transponder, è velocissimo, un attimo pigli e carichi e vai, cioè proprio per fare l'allineamento della parabola senza fare cose importanti, senza darti parametri importanti, da solo qualità del segnale e coso e intensità, due parametri, però lo fa veloce per cui il satellite lo ritrovi subito. Il mio fa anche il caffè. Il mio ti dà anche il cornetto in capo, però. Ciao Gianfra, ciao Robè, cazzo me la fregatura oggi. E perché è successo? Ho ordinato la Game Master stamattina, no? A un certo punto mi telefona quello della ditta, dice che ne avevano una sola, quando l'hanno sballata prima di spedirmela, dice che mancavano pezzi. Hanno telefonato alla Siria, la Siria Antenne gli ha detto che prima di gennaio non c'è nulla da fare. Allora hanno annullato l'ordine, speriamo che non ci mettano molto a ricaricarmi la carta. Sempre fortunato Natalino. Come? Sempre fortunato anche tu. Qua mi sono preso un'incavolatura di quelle esorbitanti stamattina. Ai. È un casino. È veramente un casino. Mentre invece roba è giusto per non state di lì a ridacchiare. Ho tentato l'installazione del Win Radio su questo coso qua, mi ha fatto una pernacchia di quelle proprio, di quelle, che le facciamo le pernacchie bene, tipo Totò. La pernacchia veramente? No, non ho capito. Mi ha fatto la pernacchia, non sei riuscito a installarla? Installarlo me l'ha installato, però è sempre la satiritera, mi dice, ma il drive qua, il drive là, il sistema operativo è nuovo, è proprio Microsoft messo, ci ho installato anche Windows 7 per essere più tranquillo, ma che non c'è niente da fare, lì c'è solo una parola, incompatibile. Altre cose, bisogna allargare le mani, veramente. È rarissimo che capita una cosa del genere, soprattutto perché l'ho cambiato anche la disk, ho fatto l'aggiornamento. Insomma, la disk ce l'ho messo uno da una sera per fare i test, però mai vista una cosa del genere. Io posso capire che non t'accetta un drive per quelle pennette, d'accordo, però un drive certificato dalla Microsoft, allora inizia a preoccuparmi. Boh, che strana questa cosa. Oh, io ne ho trovato uno di computer a Olbia, e non capendo, questo 130 euro, c'ha il quadricore, qui c'ha SSD, la disk non so da quando ce l'ha, il 8 giga di RAM, un HP, lo sta prendendo 130 euro, dice perfetto, lo puoi tenere acceso quanto vuoi, tanto l'ha già testato anche la testa, la temperatura non arriva a più di 70 gradi, un sacco di roba c'ha qui, c'ha tutte le chiavette, oltre alle chiavette c'ha attacco per SSD, le schede, per HDMI, c'ha una varia di roba, ci sono le fotografie, perfettamente funzionante per qualsiasi prova, lo stanno prendendo 130 euro. Ma è di quelli tramite eBay o di quelli diretto? No, no, subito punto it, ho messo Sassari e poi c'è questo qua, ne sta venendo uno, ti dico che cos'è questo, computer fisso HP Pavilion, questo cosa c'ha di potenza, vabbè c'ha Windows 7 64 bit, 4 giga di RAM, memoria video 1.8, disco fisso a 300 giga, tastiera, mouse e monitor, vabbè c'ha un monitor della guerra, però te ne fai nulla, questo lo fa da un cifra ridicola, ridicola, 100 euro vuole. Ma no, poi se sia gente che il contributo ce l'ha preso nuovo, adesso sta sbaraccando quello che c'aveva prima. Quindi non ti posso dare consigli, perché il computer come vedi può avere di tutto, può essere anche un i7 con 8 giga di memoria, però poi se le memorie iniziano a difettare, se c'è, perché molta gente intende il computer solo per fare le lettere, per ricevere mail e trasmettere mail, tutto l'altro è relativo. Quindi se non c'è garanzia, punto di domanda, capito, tutto lì. Il prezzo è molto molto basso considerando le macchine, anzi esageratamente basso al punto da diffidare. E poi, ripeto, non si può dire niente, punto di domanda grande grande, se uno se ne vuole sbarazzare per motivi suoi, ma c'è anche quello che se ne sbarazza perché c'ha gli stessi difetti che può avere questo, ecco. Guarda, ce n'è un altro, questo lo sta dando qua a Sassari, un certo Michele, IC fisso con processore Intel quadricore Q6006, overclockato da 2004 a 3000, 4 giga di RAM Samsung, 500 GB hard disk, sia gate, Windows 10 Pro N, versione Windows più leggera, ottimo computer in ogni condizione, temperature stabili, lasciato ore sotto stress, test, la CPU non supera 78 gradi, 72 gradi, ottime prestazioni, basta guardare qualche video di questo anno dove viene ancora utilizzato, includo mouse e tastiera. Oh, se a Sassari almeno se va male devo poi sempre tirare sulla schiena, perlomeno poi c'è quello, altro non ti posso dire così, visto così da lontano. Certo, questo per fare la valutazione, questo qua non è adatto, anche sugli avvii è indeciso se avviare il disco, se non avviarlo, forse l'avvio, forse non l'avvio, c'è qualcosa a livello un po' più grosso, dai, d'altronde c'è anche la fretta. Quindi che ha deciso di fare? Dopo l'ha preso da Megagolo, l'antenna? Dai, lì l'ho presa. Hanno annullato l'ordine, adesso devo aspettare che mi ricarichino la carta. Molto ci vorrà ricaricare la carta, ahimì. Mi ha telefonato la ditta proprio, che mancavano dei pezzi. Ne avevano una sola purtroppo. Prima di gennaio non c'è nulla da fare, quindi ha annullato l'ordine e dice che mi devono ricaricare la carta, ahimì. Sì, vabbè, quello sono obbligati a farle. Certo, con Amazon ci impiegava 3 giorni, dai 2 ai 3 giorni a ricaricare la carta, perlomeno con me hanno fatto così. Penso che anche lì sia lo stesso, se una ditta seria. Sono stati seri che non te l'hanno mandata, innanzitutto, perché sennò poi era la cosa era ancora più incasinata. E sono stati seri perché ti hanno subito chiamato, hanno bloccato tutto e sennò poi era un macello veramente. Il nome della ditta, lo sai? E adesso non me lo ricordo. Comunque mi ha telefonato quello della ditta che l'hanno sballata loro prima di spedirmelano e dice che mancavano questi pezzi qua. Vabbè, comunque sono stati onesti, almeno su quello. No, ci sono i venditori molto, molto premurosi perché è il loro lavoro e ci tengono. Poi ci sono quelli meno premurosi che durano poco perché sia eBay sia Amazon li castagnano subito e non è scherzo, no? Sono molto severi riguardo alla siretta. Allora Robè, ecco, tra l'altro disgustato da queste chiavette che anzi mi sa che faccio un pacco e inizio a regolarle tipo coso di Natale, ne ho preso un'altra, ne ho ordinato un'altra stamane, però dalle recensioni, cioè ti dico solo che c'è il TCO all'interno per la stabilità di frequenza, quindi non è una cosa come dire di quelle giocattole proprio garantita dalla casa madre, che è una nota casa inglese ed è qualificato tra i migliori, fa anche l'analisi di spettro e addirittura se necessario ci puoi mettere anche un ingresso GPS particolare per segnare i tempi al TCO in modo da avere una precisione a livello, che per radio non è neanche necessario, a livello satellitare si può dire, giusto quando sei che non può avere tolleranze neanche di qualche hertz. A te Roberto. Sì, probabilmente è simile a quello che c'ha, ma Marco l'ha pagata a 140 euro con questo termotrattato, perché quando fai le lavorazioni col satellite deve essere perfettamente sincronizzato con l'orologio atomico del satellite, per cui probabilmente quanto la paghi quella? No, questa è tra gli ultimi modelli con varie proprietari, ma si possono usare anche gli altri. Questa con la spedizione credo che sia 230, una cosa del genere. Quindi è già una cosa più. Dimmi una cosa, questo che sta venendo qua mi sembra un buon prezzo, te lo ripeto, stai attento a quello che ti dico, perché poi ha fatto anche la videata delle prestazioni del computer. C'è scritto PC fisso, con processore Intel quadricore Q6006, overclockato da 2004 a 3000, cosa vuol dire? È come una macchina che cambi carburatore, le potenze questo, le potenze quelle, le sostituisci la centralina e quindi c'ha prestazioni più forti, però sempre a scapito del processore, come anche sulle macchine. Sì, ma questo quadricore è superiore a quello che ho io come processore, no? È praticamente il doppio, cioè ne ha due in più di processori, semplicemente, e scusa se è poco, il tuo è un dual core, la velocità non è certo il massimo, quello là è un quadricore. Poi se c'ha oltre i 4 giga di memoria, allora inizia a galoppare. Ma questo ne ha 4 giga, è presente, e poi dice 4 giga di RAM Samsung, hard disk da 500 GB, Seagate, probabilmente uguale a quello che ho preso io, Windows 10 Pro N, versione di Windows più leggera, dice. Questo ne vuole 50 euro, ma si possono rischiare 50 euro secondo me, cosa dici? La versione N. Il problema è sempre il sistema operativo, se mi dicevi Windows Professional andavamo quasi sul sicuro, ma Windows N adesso lo cerco, vediamo un po' che caratteristiche ha. Sicuramente più leggera, si mette più leggera per delle macchine che non hanno grandi prestazioni, ecco, se no non ci sarebbe motivo di mettere un Windows diciamo ridotto. No, è Windows 10 Pro N, è un Pro, però versione più leggera della Pro, probabilmente c'è qualcosa di più potente. Ah, forse Pro N. potrebbe essere N accademico. Perché sarebbe preso che è identico a quello. Non lo so, aspetta che faccio un controllo. Aspetta, va a fargli uno squillo, un secondino. Ora Cali, riprendi tu, un secondino, voglio avere. Dammi su questo tipo Michele si chiama, vabbè, se ce l'ha ancora. Gianfra. Dimmi Nathalie. Nikon 725, lo conosci? Non ce l'ho presente Nathalie, aspetta, guarda anche quello, mi sta uccidendo. Da una cosa all'altra, 725, vediamo un po' se lo conosco. Cos'è? Cos'è questo? Ah, ho capito qual è, era il base, proprio il base dell'Icon qualche anno fa, cioè qualche decennio fa. Quindi non conviene prenderlo quello. No, anzi, è anche carino perché c'ha il sistema analogico. Senza lodi particolari, ma neanche senza infamia, come certo, ecco, non è come un 757, è molto meglio. Però è basilare, ecco. Cioè, non toglie che non poi lo puoi usare tranquillamente. Guarda, non è tanto la radio, la radio sarebbe anche carina, anche bella. Ci sono due cose da vedere, se è stata usata bene e se non è stata toccata dentro, perché se è toccata già se benissimo è un casino. Se invece la radio è tenuta bene da una persona seria che non sta a frugliare dentro, soprattutto se sono CD, allora insomma non so, dipende anche dal prezzo, perché recente non è recente, però rimane una radio onesta e semplice da usare soprattutto. E me lo vuole dare una persona quello lì, ed è revisionato da poco. Questo è un FM, però la propagazione ci deve essere. Non so, dipende dal prezzo, ecco. Dipende dal prezzo, dipende se questa persona è affidabile, come ho detto prima, ecco. Per revisionarlo l'hanno mandato fuori e la persona è affidabile perché è una persona seria che lo conosco io. E prezzo quant'è? 4. 4. 4. L'hai visto l'apparato come tenuto? Nuovo ha detto che. Io non l'ho visto perché comunque mi ha detto che è nuovo. Poi questo qui gli tiene veramente bene gli apparati. Vabbè, diciamo, ci sono certi baracchini che le fanno pagare di più, ecco. Quindi se a te va bene, magari lo provi prima naturalmente, anche un po' in tutte le bande come ascolto, e vedi un po' come va. Il prezzo, ripeto, se è tenuto molto bene potrebbe andare bene. Ok. Il fatto che io volevo prima piazzarmi l'antenna per essere sicuro che non disturbavo né nulla, capito? Lo so Natalia, lo so, però siamo evidentemente in un periodo di sfiga e quindi niente, tutto lì. Puoi tentare in un altro negozio se ce l'hanno e vedere lì. Sono riarrivato io. Sì, Robert, riprendi. Ma perché mi hai dato lì? L'hai già pagata l'antenna. Come? L'hai già pagata l'antenna. Non ti ho capito. L'antenna l'hai già pagata? Sì, roba. Tu l'hai pagata in due, cos'è? Da sì. Devo aspettare che mi restituiscano i soldi, beh. Quindi l'hai pagata in anticipo, quello volevo dire. Ehi, sì, sì. E se no mica te ne manda. Vabbè, molte volte si può, io molta me ce la compro, la maggior parte è contrassegna. E vabbè, ma è stato meglio così. Almeno no, loro si sono accorti che mancavano i pezzi e non me l'hanno mandata e hanno annullato l'ordine. Capito? Se no, se me l'avessero mandata l'avrei dovuta rispedire e io. Ma sai, è possibile, non c'è nessuno, c'è una Game Master, c'erano tutti, gente che magari non ne frega niente, non hai chiesto qua in radio. No, io la devo usare solo quando... Io me la volevo prendere l'originale da negozio, proprio per essere sicuro che era un'antenna come si deve. Oh, nata lì, quanto ti è venuta? 159 la volevo. No, perché c'è anche Coso che la sta dando a 150, quindi più la spedizione saranno 159, anche qui a Mercosi è lo stesso. E c'è scritto subito disponibile. Ed è Coso, Terzini di va, am Radio Shop. Am Radio? Sì, am Radio Shop. La manderebbe con Bartolini, credo, entro 24 ore. E la ricevi dopo i soliti tre giorni canonici. E gira gira, ci faccio il giro e me la ordino, torna. E poi quando mi arrivano i soldi, mi arrivano. Se mi arrivano. No, se una ditta te li manda, caspita, se no fai un reclamo a eBay. Poi io non so dove l'ha ordinata, con che modalità l'ha ordinata, qua la ordini dal sito e fai prima, le puoi anche telefonare. No, è eBay che proprio che mi deve restituire i soldi, la ditta non c'entra niente, i soldi ce li ha eBay. E allora ti restituiscono, là, non è che si perdono per cifre del genere, sono abbastanza garantiti, anzi ti dirò, sono molto più garantiti rispetto a certi locali che sono qua, puntini, puntini, puntini. Riprendi roba. Ehi, invece parlando di antenne, come ipotesi, adesso sto aspettando la risposta di Fabrizio, che forse ne ha un paio, lui di 510, che prezzo si trova? Perché ho visto dei prezzi, ho dato uno sguardo, l'originale della Diamond costa un'esorbitata la 510, poi ci sono la stessa antenna prodotta da un altro, si trova di meno. Dove come ne prenderla e quanto si riesce a trovare? Sei informato Gianfranco? Ma io mi sono fatto una convenzione che del 510, per quello che mi hanno combinato le Diamond originali, marcate, prese proprio da rivenditori, oramai si sono imbastarditi parecchio. La Diamond non la riconosco più come una casa preferenziale, mentre invece ho avuto occasione di comprare una Comet, che purtroppo costa molto cara quanto una Diamond di quelle alte 510, mentre la Comet 300 praticamente costa, ripeto, molto cara, però è fatta come le faceva la Diamond una volta, capito? Cioè eccellente. Le altre marche più o meno sono quasi tutti cloni della Diamond e purtroppo mi sa che sono cloni anche come la qualità. Quindi se la zona è esposta al vento e a tanti casini, all'acqua, all'umidità eccetera eccetera, non lo so quanto ti possa durare. Io preferirei una 300 per stare tranquillo, spendi un po' più di soldi perché sull'antenna economia non se ne dovrebbe fare, e sei un signore e quelle ti durano. Ma la 300 è il modello inferiore alla 510? No, non è inferiore, c'ha meno guadagno, c'ha un pochino meno di guadagno, ma da quell'altezza non credo che c'è questa grande necessità di parlare chissà dove, capito? No? Io l'ho tolta, una ne avevo due, una l'ho tolta perché si è addirittura staccato il coso lì, perché era, è fatto in una maniera veramente penosa, nuova e comprata, no, non è roba che ha 5-6 anni, ci avrà avuto 2 anni. Ce l'ho buttata lì. Aspetta che è entrato un tossico, avanti. Buon comani. Vabbè che tu ancora non hai il nominativo, ma te l'ho detto, te lo do io. ISO0 là là, potevi entrare. Gianfranco fa gli orecchi di porco, ma non entra. No, ero solo recenti alfa con Walter e con Domenico, con DMN, Gianfranco. Un piacere salutare a Domenico soprattutto, Walter, vabbè già. Ci sentiamo in altre occasioni. Molto bene, buonasera a tutti. 10 minuti, che fra un po' vado a cenare. Sta arrivando una tempesta, ragazzi. Sta arrivando una tempesta, le punte anche un volte sta diluviando. Qua starà per arrivare. A te, Robè. Adesso non ce l'ha veramente adesso. Infatti mi ha detto, lo vedo con lui, mi ha detto, ma piove, ho detto, guarda che piove stasera, proprio con l'arco di te. E domenica ne va da Rumondo, domenica si abbassano le temperature di 7 gradi, cioè freddo freddo, perché tra un'aria polare, adesso siamo, abbiamo venti da sud, per cui l'aria non è fredda, ma domenica arriva un'aria polare a 700 metri, se 700 metri c'è già la neve. Ciao DFB! Stavi ascoltando? IS0 Lalla! Ciao Lalla, la DFB, buonasera, ben ascoltato. Sì, sì, ma infatti io sto terminando queste cose, vabbè che ben sai, te l'ho già detto, per cui insomma godermi questo freddo, spero che nevichi, che se ne affitti quando nevica. Ce la prendiamo e niente, infatti stavo terminando, hanno terminato proprio oggi di montare quella roba là che ti ho detto, e poi stavano facendo altri lavori, ma stasera praticamente hanno fatto ben poco, e ci vediamo se domani mattina vengono, e se non pazienza e aspettiamo se c'è tregua, tutto qua. Avanti Gianfranco, buonasera a tutti, comunque qua dalle alture di Sierra Secca, io sono lo Sparviero, avanti. Sì, ciao Claudio. Oh, cavolo, sono le 8 addirittura. Strano che non stai cucinando il solito cinghiale. Se ti trovo la mamma di quei cinghiali ti fa nuovo. Stavo dicendo a Roberto di queste antenne 510 che se le regalano è un conto, ma se va a comprarle fanno tutta la stessa fine. Le uniche che si stanno salvando sono le Comet, perché ho visto, ne ho preso una, è robusta eccetera, costano un pacco di soldi, ma veramente un pacco di soldi, però almeno c'è un'antenna che ti dura 10 anni. La Diamond, anche le altre, come si chiamano, adesso mi viene il nome, sono tutte una cosa che non si crede veramente, ti fanno un anno e mezzo e ti riampi. E tu ne sai, anche tu ne sai qualcosa, Claudio, come tanti altri. Io l'ho cambiata 2 volte, la 510 l'ho cambiata 2 volte a carbonati. Questa è una 300 che avevo in più e ho montato questa proprio per non comprarne altre, ma se sono costretto a prendere chiaramente l'antenna nuova bibanda, prendo una 7000, su quello non ci sono dubbi. Molto più robusta, molto più consistente, va molto meglio sia come ricezione che come trasmissione, ma ripeto, io ancora devo sistemare un po' il parco antenne, perché devo fare anch'io qualcosa, adesso vediamo un po', però mi sto dedicando a terminare questi lavori che per me sono molto importanti, più delle antenne, più delle radio, dopodiché mi dedicherò a sistemarmi come ho sempre fatto le antenne, tutto qua. Ciao Natalino, vuoi entrare Natalino o se no le prendi tu Robby? Già, sono qui. Se sai cosa mi è successo con l'antenna stamattina, ti metti a ridere da solo. Nara, Natalino, Nara, cosa ti è successo? E non ho ordinato la Game Master stamattina. Cata, mi telefona all'ora di pranzo quello della ditta, mi ha detto che ne avevano una sola e che mancavano pezzi, come l'hanno sballata prima di spedirmela. Allora ho fatto annullare l'ordine e mi devono restituire i soldi. Dimmi tu, va, questa è sfiga bella e buona. Ciao. Ma che miseria, questa è una sfiga, sì. Come spiegarci? Non so se ne ha Vittorio dove ho preso la Smart Tech di Game Master, ma penso di sì, penso di sì. Se vuoi domani mattina lo chiamo e glielo dico se c'era la Game Master, perché mi ha detto che c'era anche la Game Master, infatti mi ha detto al limite ti posso mandare una Game Master oppure queste nuove che vanno molto bene, no me ne manda mai Game Master, non mi dicevi Game Master, ma mi manda un'antenna diversa, mi ha mandato la Smart Tech, la J-Pol, capito? Però lì da te la J-Pol non va bene, uno vabbè, potrebbe andare bene se non avessi avuto l'altro pezzo agganciato, capito? Perché 8,50 m e lavora molto bene lì perché è in alto, poi quella è un'antenna che può lavorare da zero rispetto a 30 metri di altezza, non ha problemi, è un'antenna ideale per te, veramente. Però c'è l'altro pezzo che ti ingombra ed è un casino, anche perché c'è il muro davanti e quel radiatore deve vedere, se non vede non esce, quindi non va bene per te. Fammi fare una telefonata domani mattina a Nathalie e poi te lo dico, se ce li ha decidi tu per cosa fare, insomma, vedi un po'. Il cambio per Roberto, vero? Però mi sembra che l'ha pagata troppo una carina, ha detto 156 euro, non è troppo qua una Game Master. 159. No, il prezzo suo è 160 euro costa la Game Master, Rudy. 160 euro, più la spedizione. No, costa 20 euro in meno di quella che ho io. La mia costa 180, più 20 di spedizione, quella costa 160. Alcuni siti la mettono a 160, Vittorio la sta vendendo 180 più 20 di spedizione, capito? La Game Master invece è 160 più 20 di spedizione. Nathalie, guarda che comunque ce l'hanno anche, qua dice disponibile, la Media Club è 144,99, che sarebbe 145 euro in pratica, più ovviamente la spedizione, aggiungici le solite 10 euro e siamo lì. E adesso domani vedo, dai. Guardo sul computer e vedo un po'. Speriamo che riusciamo ad averla questa antenna, perché questa che ho mi sta dando problemi e me la voglio buttare giù. Diablo, un attimino. Vai. Allora, tu hai detto questo, la banca di soldi, cosa intendi tu una banca di soldi, la X300? Della Comet sto parlando, non della, non certo della cosa, come si chiama, della Diamond. No, perché adesso guarda, questa della Eco Antenne, X300M, antenna verticale bibanda, la base 3,10 m, 75,90 più 13 di spedizione. Ah, a ciappelle, vabbè, che sono antenne non servono a niente, o Comet o Diamond, ma la Diamond si è un po' sporcata, se prendi la Comet va molto bene, costa intorno ai 100, sui 150 euro mi sembra una cosa del genere. Un pezzo di coso, di un tubo di plastica. Ehi, no, è un tubo di plastica, se prendi la Comet si piglia in un'antenna. Robe, non devi guardare, non devi guardare il tubo di plastica o meno, devi guardare la qualità con cui è fatta, ci sono macchine che costano 10.000 euro e ci sono macchine che costano 30.000 euro e ti garantiscono la qualità, cosa la dovrebbero per me. Quindi vedi tu, adesso sto guardando un po' le Comet che ce li ha sempre, anche quelle Media Globe, è un prezzo abbastanza accettabile, non vedo la 300 perché forse c'è un altro nome, però altezza 3 metri ad esempio, duo banda, 145 euro, però è un'antenna, è una Comet, non è una Diamond. Io l'ho vista, oppure c'è